11:37, Radio Onda Rossa, 87.900. Dunque iniziamo questa mattinata redazionale un po' in ritardo per una serie di problemi. Siamo già al telefono comunque con una compagna a cui rivolgiamo subito il nostro saluto. Ciao. Ciao a tutti e tutte. Allora, siamo al telefono con una compagna perché domani è previsto un appuntamento importante, domani 11 luglio alle ore 18:30 da Piramide partirà un corteo territoriale che coinvolgerà una serie di realtà presenti appunto sul versante Piramide Ostiense. Ci sono oltretutto anche nuove esperienze come il posto occupato Alexis e oltretutto una manifestazione all'interno della quale ci sarà spazio per diciamo una composizione abbastanza variegata che va dai precari ai diversi posti di lavoro e oltretutto si va a calare in una in un periodo in cui si rivendica oltretutto anche la possibilità di diciamo usufruire del parco Schuster pubblicamente, così come sempre è stato, e ovviamente in questo periodo invece c'è un problema diciamo così legato alla festa, ai mega eventi che ne impedisce un po' una libera fruizione del parco. Per cui Giulia, raccontaci un po' come è iniziato diciamo questo percorso. Peraltro ci sono state anche delle assemblee anche abbastanza partecipate. Sì, diciamo il percorso nasce dalla volontà di alcune realtà del territorio, quindi insomma sicuramente case occupate, centri sociali, attivisti e attiviste insomma sui temi della lotta contro la precarietà eccetera, di cominciare a ricostruire quel tessuto connettivo delle lotte e delle soggettività che non per colpa dei singoli, delle singole situazioni, ma viene a mancare dentro una crisi più generale che è stata analizzata tante volte della rappresentanza politica, sindacale, eccetera, che ovviamente riguarda un po' non solo le strutture diciamo consolidate, eccetera, ma purtroppo spesso anche i movimenti che devono in qualche modo ritrovare e impegnarsi insomma nel ritrovare le forme anche di attraversamento dei territori, le forme di invenzione di nuovi linguaggi, forme di comunicazione e di aggregazione. Quindi l'idea nasce insomma da un lavoro di mappatura, di inchiesta fatta sul territorio insomma negli ultimi anni o negli ultimi mesi più semplicemente, un territorio in cui appunto a partire da Piramide troviamo subito all'inizio l'ACEA per esempio, e quindi insomma tutto il discorso delle vertenze per l'acqua pubblica, insomma sulle utenze e quant'altro, sono state fatte varie iniziative negli ultimi mesi, e quindi siamo un po' insomma proprio da lì. Poi attraversiamo appunto il quartiere passando davanti alla Telecom, che in questo momento insomma come in altri utilizza i contratti di solidarietà, sta insomma tagliando sui posti di lavoro, ovviamente quelli sempre quelli più precari, eccetera. E passiamo quasi all'automatica, che è un altro dei simboli insomma delle nuove forme di produzione di profitti, a discapito appunto del lavoro precario, a discapito anche veramente del sistema economico che stiamo producendo, nel senso che nessuno ha una lira e tutti scommettono, giocano e sperano insomma nella lotteria. E da lì appunto proseguiamo verso via Ostiense, e quindi passiamo sotto le case occupate che hanno fatto in questi ultimi mesi un po' veramente la parte del leone dentro delle dinamiche anche di conflitto che non si è fermato, e quindi immagino insomma tutto quello che è successo con lo tsunami Tour, con le decine e decine di nuove occupazioni che hanno investito la città. E proseguendo su via Ostiense appunto passiamo davanti a Alexis, che è appunto una nuova esperienza che si è buttata a capofitto anche in questa iniziativa, portando anche l'innovazione dei linguaggi, delle forme di stare in piazza. E prima di arrivare alla piazza di chiusura, dove appunto proveremo a fare una piazza appunto tematica, ma anche con interventi musicali, artistici e quant'altro, passeremo davanti al Parco Schuster, un parco che per molti di noi nel territorio è un parco molto importante, cioè l'unico parco pubblico insomma su via Ostiense, quindi per un bacino di persone molto grande, che per tutto il mese di luglio è stato occupato da questo appunto mega evento, che non è la festa dell'unità del quartiere eccetera, ma appunto è un insieme di stand di oltre 50 stand commerciali, con appunto iniziative più o meno gratuite o a pagamento, che appunto hanno devastato il parco e ne hanno impedito l'utilizzo da parte della cittadinanza, se non nelle forme appunto di questa festa, che appunto è sicuramente una festa commerciale. Quindi passando là davanti appunto ci sarà anche finalmente modo di far sentire anche appunto tutta la nostra rabbia rispetto a quello, ma non tanto sul fronte della semplicemente della questione del parco, con la quale ci siamo mossi insomma all'interno di un comitato, abbiamo già consegnato 500 firme, abbiamo fatto anche degli incontri col nuovo gabinetto del sindaco, che ha scaricato le responsabilità sulla precedente amministrazione che ha negato Caracalla. E passando davanti alla festa del PD spero che riusciremo anche qualcosa su quello che è il nuovo governissimo delle larghe intese, che ha sostituito il governo tecnico, ma fondamentalmente in continuità e nella stessa logica del governo tecnico, e quindi in una appunto in una modalità di sospensione di qualunque agibilità democratica. L'idea appunto di ripartire dal basso dai territori è quella di cominciare a costruire appunto i tessuti connettivi, a ricreare nuovi linguaggi, una consapevolezza che sono le piazze a dover trovare i modi e le forme per esprimere quello che altrimenti rimane chiuso nelle frustrazioni individuali. Dobbiamo fare insomma tanto rumore, perché per esempio le morti per suicidio che continuano a ripetersi nel silenzio più totale, insomma l'altro giorno si è ammazzato un altro ragazzo di 26 anni disoccupato a Milano, tutto questo sembra sparire dall'agenda e dai problemi che invece sono solo legati all'affidabilità dell'Italia e al rating che ci dà Standard & Poor's eccetera, mentre i problemi reali sono come questo paese sta continuando ad accumulare profitti sui tagli al welfare, sui tagli ai diritti sul lavoro, sui tagli che appunto coinvolgono le nostre vite direttamente, che dobbiamo assolutamente trovare le forme e i modi di rovesciare. Quindi l'idea di rovesciare i rapporti di forza creando nuove consapevolezze sui territori. Questa è l'iniziativa del quadrante San Paolo Ostiense, vuole essere anche connessa alle altre iniziative che la piattaforma sta cominciando a mettere in campo quest'estate, ma che sicuramente proverà a riprendere da settembre-ottobre, quindi l'apertura di punti di camere del lavoro e non lavoro, l'apertura di momenti anche di appunto contatto con la cittadinanza più larga di quella che fino ad oggi ha potuto attraversare i movimenti. Sicuramente ci sarà un'iniziativa appunto credo il 17 luglio davanti insomma a una sede INPS organizzata dai precari scuola, che come hanno si ritrovano tutti disoccupati a luglio, agosto e settembre, per poi ricominciare non si sa se forse a ottobre, qualcuno a novembre se c'hai la cattedra per l'insegnante, ti chiamano quando si ricordano e quant'altro. Quindi c'è il dramma della disoccupazione estiva per migliaia e migliaia di lavoratori, così come ci saranno altre iniziative insomma in zona Casa Albertone, San Lorenzo e quant'altro. E quindi appunto invito tutti e tutti a partecipare a questa iniziativa, in cui portare appunto ognuno i propri contenuti. Sicuramente sono tutti ben accetti, un po' quello che ci diciamo è insomma non vorremmo bandiere di partito o di sindacato, ma ben venga che vengano tutti gli attivisti che insomma anche in quelle forme si impegnano insomma nel cercare appunto di trovare delle forme comuni di stare in piazza, di riprenderci le strade e di continuare insomma a non stare in silenzio di fronte a quello che sta succedendo. Beh sì, anche perché poi insomma è soprattutto importante ritornare a pensare in termini di, come dire, intervento territoriale, nella misura in cui magari si può, diciamo, convogliare all'interno di uno stesso percorso sensibilità e soprattutto anche interessi, vertenzialità diverse. Ogni quartiere, ovviamente, ogni zona, insomma, ha le sue specificità. Molte sono quelle che riguardano quel quadrante dove ci sono sia piccole e medie imprese che formano una sorta di piccolo tessuto produttivo, ma è anche zona universitaria con tutte le contraddizioni del caso riguardo ad esempio il mercato degli affitti, e evidentemente il corteo che partirà domani alle ore 18 da Piramide, insomma, tenterà, da quanto anche tu ci hai detto fino adesso, di tenere insieme tutti questi discorsi uniti nella parola d'ordine del reddito e anche del welfare, visto che anche da questo punto di vista il territorio va sempre più prosciugandosi, no, di servizi per la collettività. Certo. Su questo appunto ci tengo a dire che la parola reddito, la vertenza reddito non deve più essere, insomma, motivo di divisione tra appunto chi lo vede come uno strumento praticabile attraverso un meccanismo legislativo e quant'altro, e chi invece pensa che quel meccanismo possa essere invece addirittura deleterio, perché in quanto ammortizzatore sociale no, in qualche modo possa semplicemente addolcire la pillola di condizioni invece di diseguaglianza molto forte. In questo momento il tema del reddito diventa centrale, non tanto per il reddito che chiediamo, ma per il reddito che ci vogliamo riprendere, che il problema del reddito ce l'abbiamo. Quindi diciamo, tornare un po' indietro sull'etimologia della parola reddito e immaginarlo come problema economico, cioè, che è un problema che noi comunque abbiamo, e smettere di pensare che se abbiamo un problema economico il problema è nostro, perché lavoriamo poco, perché ci siamo formati culturalmente nella disciplina sbagliata, o perché non lo so, perché non siamo disposti a cambiare città o paese, eccetera. Un problema economico c'è perché c'è un'accumulazione dei profitti in capo a pochi, e un'appropriazione delle risorse comuni da parte di pochi. Pensiamo soltanto a tutto quello che hanno analizzato le lotte tra le grandi opere e i grandi eventi, insomma, adesso il nuovo paradigma di Expo, come sicuramente continua a essere quello di TAV, cioè su questi progetti si investono soldi che la collettività dice sempre di non avere, si utilizzano questi eventi per anche continuare ancora di più il processo di smantellamento del mercato del lavoro. Oggi i giornali titolano che su Expo è necessario aumentare la flessibilità del lavoro, ma io non so veramente, cioè ormai proprio per flessibilità siamo proprio allo stato gassoso, cioè della solidità dei mercati, cioè del mercato del lavoro. Per cui appunto reddito inteso come centrare anche un po' il focus del nostro linguaggio e delle nostre lotte sul problema economico. Va bene, senti, allora niente, appuntamento sicuramente per domani pomeriggio, e anche dalla radio cercheremo di collegarci, insomma, con il corteo per capire un po' come va, d'accordo? Perfetto. Ci vediamo. Perfetto, ci grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao, a tutti. Ciao. City blocks, I don't be up in spots, I'm on that why not. Sit at home with a shot glass like a start off and shine like Flav's clock. Burn slow from the clean, spit Clorox and stay